Il principe Ranocchio. Molto tempo fa, quando ancora i desideri si avveravano, viveva un re con la sua bella figlia. Lei era così bella e dolce che il re le regalava sempre tutto quello che desiderava, realizzando ogni suo desiderio. Papà, sono stanca di giocare con i miei vecchi giocattoli. Ti prego, regalami qualcosa di nuovo. Oh, mia cara, tu sei preziosa per me. Ti darò il più prezioso dono che ricevetti in regalo da mio nonno tanto tempo fa. Lo custodisco gelosamente. Il re aprì la cassaforte e prese una palla d'oro luccicante. Wow! Prendi questa palla. Brillerà luminosa come il sole sotto il cielo. È molto preziosa. Tienila sempre con te. Ti raccomando di non perderla mai. Grazie, papà. Tu sei il miglior papà di tutto il mondo. La principessa corse a giocare in giardino, rincorrendo qua e là la sfera tutta d'oro. Apparve a un tratto un ranocchio. Ah! Va via di qui, brutto, sporco ranocchio! Ti ho visto dai cespugli e sono stupito dalla tua gran bellezza. Quack! Desidero diventare il tuo amico e giocare con te, ti va? Ah! Come puoi anche solo pensare una cosa del genere? Non posso giocare con un ranocchio brutto come te! Io sono la ragazza più bella del mondo! Perché devo giocare con una cosa come te? Posso parlare! Posso saltare! Posso fare il bagno e prendere la palla! Io sono quello perfetto per giocare con te! Preferisco giocare da sola che con uno sporco ranocchio! Disgustata, la principessa tornò al castello e si sbarazzò della rana. Il giorno dopo decise di giocare ancora con la palla. Scelse un luogo solitario sotto un vecchio tiglio situato nei pressi di un pozzo. Com'è calmo e tranquillo questo posto! Quel brutto ranocchio non mi disturberà! Così iniziò a giocare con la palla. La lanciava e la riprendeva. Tutto a un tratto la palla brillò alla luce del sole ed era così brillante che abbagliò gli occhi della fanciulla. Invece di cadere di nuovo nelle sue mani, cadde a terra e rimbalzò sul bordo e infine rotolò giù dentro al pozzo. Oh no! La mia palla d'oro! Oh mio Dio! È così profondo! Non riesco a vedere dov'è e adesso cosa faccio? La fanciulla pianse come non mai. Era senza speranza. Mentre piangeva, udì una voce. Oh, figlia del re, che succede? Le tue lacrime farebbero sciogliere anche un cuore di pietra! La principessa si guardò intorno. Oh, sei tu, brutto ranocchio? Piango perché la mia bella palla d'oro è caduta giù nel pozzo! Non importa! Posso aiutarti! Ma cosa mi dai in cambio se vado a prendere la tua palla? Quello che vuoi, caro ranocchio! Uno qualsiasi dei miei vestiti, le mie perle, i gioielli! Ho anche la corona d'oro che indosso! I vestiti, le tue perle, i gioielli, la tua corona d'oro non fanno per me! Se mi dai la tua amicizia e diventiamo compagni di giochi, se mi permetterai di sedermi a tavola e mangiare dal tuo piatto e bere dalla tua tazza e dormire nel tuo letto insieme a te, se mi dai tutto questo... Io ti prometto che mi immergo sott'acqua e recupero per te la palla d'oro! La principessa, ormai disperata, dopo aver ascoltato tutta la lunga lista dei desideri del ranocchio, decise di acconsentire alle richieste pur di riavere indietro la palla. Oh sì! Ti prometto tutto! Tutto quello che vuoi! Basta che mi riporti la mia palla indietro! Non appena la rana sentì la sua promessa, si immerse nell'acqua. Dopo un po' venne a galla con la palla d'oro e la gettò sull'erba. La principessa era molto felice di riavere di nuovo la sua palla d'oro. La prese e corse subito via. Ferma! Ferma! Portami con te! Non posso correre veloce come te! Tutto fu inutile. Il giorno successivo, quando la principessa era seduta al tavolo da pranzo con il re, mentre mangiava dal suo piattino d'oro, qualcuno bussò alla porta. Oh, principessa! Fammi entrare! La principessa si alzò e corse a vedere chi poteva essere, ma quando aprì la porta, vide il piccolo Ranocchio. Tu, sporca creatura! Come osi bussare alla mia porta? Chiuse la porta e ritornò al suo posto, sentendosi molto a disagio. Il re si accorse che la sua adorata figlia era agitata. Bambina mia, di cosa hai paura? C'è per caso un orco gigante fuori dalla porta pronto a portarti via? Oh no, papà! C'è un brutto ranocchio! E che cosa vuole il ranocchio? Oh, papà! Ieri, quando ero seduta vicino al pozzo, mentre giocavo, la mia palla è inavvertitamente caduta in acqua. Quel ranocchio ha recuperato la mia palla ad una condizione: che io diventassi la sua amica. Ho accettato la sua offerta, ma non pensavo che potesse lasciare l'acqua e seguirmi. E adesso è fuori dalla porta e vuole entrare! Oh, figlia del re! Aprimi, per favore! Ieri mi hai fatto una promessa! Quando fai una promessa, devi mantenerla! Figlia mia, apri la porta e fallo entrare! La fanciulla aprì la porta e la rana entrò e la seguì fino a raggiungere il tavolo. Grazie, principessa! Che onore sedermi accanto a te! La principessa lo guardò molto arrabbiata, ma vide il viso severo di suo padre e fece accomodare il ranocchio. Ora possiamo mangiare insieme! La principessa pranzava infastidita mentre il ranocchio gustava tutto il cibo. Dammi un po' di zuppa, per favore! È così buona! Non ho mai assaggiato prima d'ora una cosa così gustosa! La rana mangiò tutta la zuppa, mentre la principessa non riusciva più a toccare cibo. Grazie mille, principessa! Sono veramente sazio e molto stanco! Portami nella tua camera! Prepari il letto e sdraiamoci! Così possiamo dormire tutte e due insieme! Basta! È meglio che lasci il palazzo, mi dai molto fastidio! Mia cara figlia, queste parole non sono degne della figlia di un re. Hai fatto una promessa, quindi ora devi mantenerla. Una volta che una dama reale ha dato la sua parola a qualcuno, non può cambiare idea. Questa è la nostra tradizione, che tutti noi dobbiamo seguire. Prese il ranocchio con il pollice e l'indice, lo portò al piano di sopra e lo mise in un angolo. Farai meglio a stare qui tutta la notte, altrimenti domani ti getto nella foresta oscura! Sono stanco e voglio dormire in un posto più confortevole! O mi soddisfi o lo dirò al re! Brutto ranocchio! La fanciulla lo prese e lo gettò con tutte le forze contro la porta. Il povero ranocchio svenne sul colpo. Svegliati, stupido ranocchio! Smettila di recitare! La principessa lo toccò con il dito, ma il ranocchio era morto. Sei veramente morto! Oh mio Dio, che cosa ho fatto! Ti prego, svegliati, ranocchio! Mi dispiace per il mio comportamento! Lo prese in mano e continuava a piangere e dolcemente baciò il ranocchio. Con grande stupore, la rana aprì gli occhi e saltò sul pavimento. Tutto a un tratto, magicamente il ranocchio si trasformò in un affascinante e bellissimo principe. Oh, ma tu chi sei? Dov'è il ranocchio? Non preoccuparti, ero io quella rana e ora sono un principe. Ti racconterò tutta quanta la mia storia. Quando ero ancora un umano, ero testardo e arrogante. Andavo a caccia nella foresta e uccidevo gli animali. Improvvisamente apparve una fata nella foresta. Uomo senza cuore! Questi animali non sono dei giocattoli con cui giocare. Vivono liberi, proprio come te. Dio ha creato questa natura meravigliosa e tu, umano, la stai distruggendo! Cosa ti hanno fatto loro di male? Come ti permetti di parlarmi così? Tu non sai chi sono io! Io sono il principe di questo regno e questa foresta appartiene a me! Ogni albero, ogni animale e ogni cosa su questa terra sappi che appartiene a me! Stupido principe, la natura appartiene a Dio! Il creatore di questo universo è Dio, non tu! Tu non hai alcun diritto di uccidere degli animali innocenti! Basta parlare! Levati di mezzo! Tutto a un tratto, la fata della foresta divenne una donna enorme, Persino il principe si spaventò nel vederla. Misero arrogante! Ti maledico e ti muto in un ranocchio! I serpenti di questa foresta ti daranno la caccia per mangiarti. Sarai cacciato come hai fatto tu con questi poveri cervi. Il principe si trasformò in un ranocchio. Oh, che cosa mi hai fatto? Ti prego! Fata della foresta, ti prego! Perdonami, ti prometto che non farò più del male! Né a te né alla natura! Sarò gentile con ogni creatura, lo prometto, ti prego! Penso che tu abbia capito i tuoi errori, ma la tua arroganza non deve restare impunita. Ti darò un contro incantesimo. Sì, grazie, mia fata! Ti dimostrerò il mio valore! È necessario che tu cerchi una principessa che manchi di rispetto agli animali della foresta e devi convincerla a essere gentile con te. Se tu riuscirai a farle cambiare atteggiamento, solo allora potrai tornare a essere di nuovo un principe. La principessa si vergognò di essere stata così cattiva. Non essere triste, bella principessa. Ora promettimi che non tratterai più gli altri in modo scortese, ma sarai sempre gentile con tutti. Sì, lo farò, principe. Oh, fantastico! Dal momento che hai deciso di avere un buon cuore, posso chiederti un piccolo favore? Certo, tutto quello che desideri. Tu sei la più bella fanciulla che abbia mai incontrato. Mi sono innamorato di te. Vuoi sposarmi, piccola principessa? Senza alcuna esitazione, la bella principessa disse sì al principe azzurro. Con il consenso del padre, si sposarono. Ogni giorno gli animali erano in loro compagnia e se ne prendevano la massima cura, così come tutta la foresta. La magica fata vide la bontà della coppia ed era felice. Ben fatto, figli miei. Voi avete dimostrato come sono i veri esseri umani. L'amore è una qualità divina e risiede in ogni essere umano. Ricordate che quelli che proteggono la natura sono divini. Dio sarà sempre con voi e vi verserà la sua benedizione. In seguito, la coppia visse felice e benedetta in eterno.